Mai dette frasi di questo tipo? Bambini, smettetela subito di litigare. Insomma, questa volta chi ha iniziato? Forza, fate subito pace. Quando due bambini litigano, noi adulti andiamo sempre un po' in crisi e tendiamo ad intervenire, salvo poi accorgerci che i nostri interventi non hanno risolto proprio nulla. Ecco perché oggi vi voglio parlare del metodo litigare bene. Ne parla Daniele Novara in questo libro. Vi lascio come sempre il link in descrizione. È un metodo in 4 passi. Guardate il video fino in fondo perché se con costanza imparerete a capire, a mettere in pratica questi 4 passi, vedrete che accadrà qualcosa di magico. No, non nel senso che non litigheranno più, ma nel senso che impareranno a viverli in modo diverso e soprattutto acquisiranno competenze relazionali nuove. Effettivamente esiste come una sorta di tabù rispetto ai litigi infantili. Noi adulti fatichiamo ad accettarli e ad affrontarli in modo sereno. Come mai? Innanzitutto a causa del nostro vissuto. Quando vediamo il litigio dei bambini, ritornano alla nostra mente i nostri litigi infantili e magari le relative punizioni e interventi degli adulti. E paradossalmente sono proprio questi che impediscono al litigio di evolvere e di dare al bambino un modo nuovo di affrontarlo. Ma soprattutto siamo portati a considerare il litigio come un male, come qualcosa di sbagliato, e di conseguenza il bambino che litiga è un bambino cattivo. Ecco allora un tabù che dobbiamo rompere con forza. Litigare non è male. Litigare è soltanto una forma di conflitto, un modo di relazionarsi con gli altri bambini. E proprio insegnando a litigare bene, daremo ai nostri bambini un antidoto alla violenza. Proprio così, un antidoto alla violenza. Facciamo allora un po' di chiarezza riguardo ai termini. Nella violenza c'è la volontà di risolvere il conflitto tramite il danneggiamento intenzionale e l'eliminazione dell'altra persona. Il conflitto invece è una forma di contrasto in cui ci si relaziona con l'altro, portando le proprie ragioni e senza voler eliminare né il rapporto né l'altra persona, ma cercando un modo nuovo di relazionarsi. Allora, i bambini che non imparano a litigare potrebbero rimanere in una sorta di carenza conflittuale che potrebbe protrarsi e dare conseguenze anche nella loro vita da adulti. Da grandi potranno faticare ad avere rapporti sereni perché non saranno in grado di affrontare quella dose di conflittualità sempre presente in ogni rapporto. Eccoci quindi al cuore del metodo litigare bene, che consta di 2 passi indietro e 2 passi in avanti. Primo passo indietro: non cercate il colpevole. Chi è stato? Chi ha iniziato questa volta? Inutile cercare il colpevole, perché nel litigio infantile il colpevole spesso non c'è. Ci sono solamente 2 bambini che stanno discutendo per qualche motivo. Come adulti abbiamo un'idea di colpevolezza distantissima dal mondo dei bambini. Non si tratta allora di cercare il colpevole, ma di trasformare il litigio in un'occasione di apprendimento relazionale. Secondo passo indietro: non fornite la soluzione al litigio. Se l'adulto propone una soluzione, sì, i bambini ci si potranno anche adeguare, ma ci rendiamo conto che la pace raggiunta spesso non sarà molto stabile. Ancora una volta, le nostre soluzioni ai litigi infantili non funzionano perché partono da presupposti di giustizia completamente lontani dal modo di ragionare dei bambini. Ed eccoci finalmente ai 2 passi in avanti. Primo passo in avanti: fate parlare i bambini tra loro del litigio. Non bloccate cioè il litigio, fateli raccontare, fategli esprimere nel dettaglio quello che è successo, fategli dire le loro ragioni e soprattutto cercate di far venire fuori le emozioni che stanno vivendo. Fateli comunicare tra loro, perché se le emozioni non vengono espresse, rimangono come chiuse da un tappo e saranno pronte ad esplodere magari in un altro momento. Attenzione, avvertenza: più i bambini sono piccoli, più a volte i loro ragionamenti, le loro ragioni ci sembreranno illogici, incomprensibili. Non importa, è importante che loro esprimano quello che vivono interiormente, quello che sentono, le emozioni che vivono dentro. Secondo passo in avanti, cercate di favorire il raggiungimento di un accordo. I bambini sono molto interessati a trovare un accordo, a loro in fondo non interessa litigare, ciò che a loro interessa è riprendere, continuare a fare quell'attività o quel gioco che stavano facendo. Provate e vi stupirete dei modi anche molto bizzarri che i bambini trovano per raggiungere un accordo. Ecco un esempio fantastico. Rosa di 5 anni sta disegnando e si lamenta che Dario a un certo punto gli ha fatto una rigaccia sul foglio. Da parte sua Dario dice soltanto che voleva aiutarla. Se l'adulto interviene è facile che proponga soluzioni di questo tipo. Avanti, dai, usate i colori un po' per uno. Mettete via i colori, così imparate a litigare per cose da nulla. Avanti, Dario, chiedi scusa a Rosa. Rosa, non puoi fare colorare un po' anche Dario? Che cosa ti costa? La mamma invece conosce il metodo litigare bene e allora non interviene per dare soluzioni né direttive, ma chiede ai bambini di trovare tra di loro un accordo. Rosa e Dario si appartano per un qualche tempo e poi ritornano tutti felici dalla mamma a raccontare quello che hanno pensato. Quando l'ho letto sono rimasto sbalordito. Ecco la loro soluzione. Abbiamo deciso che quando Dario vuole aiutarmi a colorare me lo deve dire. Così io gli dico come fare e quali colori usare. È fantastico. Un adulto non avrebbe mai pensato a una soluzione del genere. Per loro invece è semplice, è lineare, è giusto così. Noi adulti diremmo che non c'è nessun senso di giustizia e di equità in un accordo del genere, ma non importa, ciò che importa è che a loro vada bene così. Per favorire una ritualità potrebbe essere utile individuare un angolo della casa e chiamarlo angolo dei conflitti. Quando c'è un litigio si va lì, si cerca un accordo e poi si scrive l'accordo su un foglietto e si mette in un'apposita scatola. In caso di ragazzi più grandi il problema non sarà continuare a giocare, ma il favorire il raggiungimento di un accordo li aiuterà a capire che nonostante i conflitti, che sono qualcosa di naturale, si può comunque continuare a convivere rispettandosi, magari in certi momenti allontanandosi, ma trovando comunque il modo di convivere serenamente. Lettura consigliatissima che ci ricorda che i bambini non sono adulti in miniatura, hanno un loro modo di ragionare e possono comunque farcela da soli se c'è anche un adulto che crede in loro e nella loro capacità e autonomia nell'affrontare e risolvere i conflitti.